Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Eccoci allora, i risultati della domenica li avete sentiti, una domenica che deve ancora regalarci il meglio. Alle 18 Parma-Lazio, alle 20.45 Inter-Milan, con Lazio e Inter che sognano di avvicinarsi, di agganciare nel caso dei nerazzurri la Juventus che è caduta ieri a Verona. E tra qualche minuto cominciamo il lungo processo, perché sulla Juventus è il caso, carissimo Carlo, di aprire un processo. Ciao a te. Ciao a tutti. Bussola della domenica, i risultati li abbiamo sentiti, tradotti nella classifica. C'è la grande occasione persa dal Napoli, che ha mancato la terza vittoria di fila, non è mai riuscito in questo campionato a vincere 3 partite consecutive, resta undicesimo, una partita che va un po' raccontata però, perché ha mancato tante occasioni. C'è anche un episodio di cui si discute molto da VAR, 18.45 VAR Anatomy con Luca Marelli. E poi c'è l'accelerazione della zona calda della classifica con le vittorie di Sampdoria, Lecce e Genoa. Il Brescia è stato raggiunto nel finale dall'Udinese e questo rende ancora più complicata la situazione della SPAL, ultima quota 15 punti, con Semplici che sta saltando. Oggi è stato battuto in casa dal Sassuolo. Il nome che si fa è quello di Gigi Di Biagio. Il menù della domenica. Un saluto anche a te, Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Carissimo Pier, allora vi faccio prima sentire in diretta le prime battute di un Gattuso delusissimo per la sconfitta del suo Napoli. Possono sbagliare, però dopo squadra fragile, squadra che oggi se non sbaglio eravamo sempre 3-4 giocatori contro la Padula, la metteva giù e dava la possibilità di farli salire. Se andate a vedere anche il secondo gol, 8 giocatori della linea da palla senza veemenza, senza tenere palla coperta, e penso che in questo momento non dobbiamo stare, anche se non fai gol però devo finire 0-0, perché devi se lavori bene. Il problema è che in questo momento non riusciamo ad avere cattiveria, c'è troppa passività e si pensa, dopo il cedote ci mette anche del mio, perché quando vuoi provare a vincere le partite dopo cominci a fare qualcosa di diverso, metti un giocatore in più a livello offensivo, però oggi ci manca la cattiveria, perché certe volte non si può in questo momento far palleggiare, non andare con veemenza, con organizzazione. Aspettiamo, ma abbiamo visto che anche se aspettiamo gli avversari, quando arrivano là, dopo riusciamo a fare il solletico sulla pressione agli avversari. Penso che allora, questa la lettura di Gattuso, Napoli che ha prima dominato, poi si è fatto scivolare via la partita. Lecce che ha fatto 3 gol con 4 tiri in porta, credo, quindi c'è anche un po' di sfortuna in quello che è successo oggi al Napoli. Qualche episodio, però il tema è che mentre le altre si stanno rialzando mi sembra che il Napoli non riesca a trovare il filo, il bandolo della matassa. Provo un minimo di continuità oggi, però parecchio scagnognato, perché insomma quelle partite strane, domini, prendi un gol praticamente a freddo sul primo tiro in porta, poi riesci a riacciuffarla. Poi vai sotto ancora, poi non ti danno un rigore che diventa una ammonizione per simulazione di Milik e poi la perdi. Le abbiamo viste tante volte partite così all'insegna delle stelle contrarie. Sì, dire che ieri Gattuso aveva detto si può anche immaginare di provare a rientrare nella corsa per la Champions League, mi pare che la risposta di oggi sia sconfortante. Allora, apriamo il processo alla Juve, ne parleremo a lungo. Dopo il traffico vi faccio sentire Sarri ieri, una delle parti del suo intervento dopo la sconfitta a Verona. Penso che noi dobbiamo capire che vincere non è scontato. Vincere è difficile, nel corso degli anni per la Juventus sta diventando sempre più difficile, non è scontato. E quindi bisogna farsi entrare nella testa che per vincere bisogna lottare di più, sporcarsi a volte di più e non avere cali di attenzione e di applicazione durante la partita. Allora vi chiedo, Pier, parto da te, si può parlare di crisi Juve? Ma è una Juve diversa da quella che conosciamo. Io credo che nella partita di ieri la cosa più impressionante è la mancata gestione della partita, che si era messa bene la prima mezz'ora, in qualche modo Sarri l'ha anche riconosciuto, è stato soprattutto merito del Verona, in qualche modo la Juve aveva messo in preventivo l'idea di aspettare per poi cambiarla, e poi però una volta va in vantaggio sono errori imperdonabili: colpo di tacco di Bentancur, il tocco dietro di Pjanic, la posizione sbagliata di De Ligt. Sì, cioè, sono anche errori e problemi che si stanno ripetendo in maniera E mi ha colpito molto quando io ho chiesto a Sarri se i leader, i tanti leader di questa squadra, i tanti giocatori di personalità e di qualità, tanto possono aiutarlo. E insomma, lui fa questo discorso, parlando un po', spero che mi aiutino. Cioè, insomma, è un po' una sensazione di allenatore che ancora non ha trovato la sua squadra e che questo aspetto della concentrazione, che ne parlavamo anche con Guido Ligo, è un rebus che non riesce a risolvere. No, ma Strani... è la cosa più difficile da risolvere. Ha strani passaggi di fragilità, Pierluigi, la Juventus ha dei curiosi passaggi di fragilità, è anche molto, molto discontinuo, molto altalenante. Ha dei passaggi non da Juve, cioè, no, non da Juve. Adesso ne parliamo dopo il traffico. La cosa che colpisce di più è questa: no? se c'è un tratto distintivo della Juve di questi ultimi anni, non è stata sempre la bellezza del gioco, che spesso è mancata, non è stata sempre la selezione estetica, ma la praticità, la certezza che questa squadra una volta va in vantaggio, dopo che il Verona gioca meglio, va in vantaggio con un gol pazzesco di un giocatore pazzesco come Cristiano Ronaldo, quella partita non la perde. Sì, non è più così. Mi viene da dire, e lancio il tema agli amici a casa, 800 24 00 24, oggi se ci siete cerchiamo di passare più telefonate possibili, che però quella non era la Juve di Sarri e questa sì. E allora io per la prima volta vi chiedo se si può associare il nome Sarri alla parola processo. Ne parliamo dopo il traffico. Secondo file audio, Conte, 20:45, il derby Inter Milan. Iniziamo una serie di partite importanti che potranno dire molto, molto di più. Alla fine di questo ciclo, secondo me, sapremo molto di più eventualmente del nostro percorso. Al di là di chi ci sta davanti, chi ci sta dietro, noi dobbiamo cercare di crescere di partita in partita, guardare soprattutto a noi stessi. Ma l'importante è che continuiamo a costruire, continuiamo a fare quello che stiamo facendo nella giusta maniera. Mi sembra che Conte continui, Carlo, a cercare di tenere i fari spenti sull'Inter. Impresa titanica. Sì, impresa titanica dal suo punto di vista fa bene, ma è chiaro che l'Inter stasera non ha due risultati a disposizione, ma ne ha solo uno. Deve vincere questo derby. Non credo che abbia molte che possa anche pensarla perché, in maniera diversa. Anche perché peserebbe, credo, un passo falso o un mezzo passo falso. Pier? Sì, è un'impresa impossibile. Fatica i Zaghi a tenere a bada gli entusiasmi. Eppure la Lazio sicuramente non è partita per vincere il campionato, figura di Conte, insomma. Sì, oggi è molto importante, ma insomma la mia sensazione è che si vada verso una lunghissima volata piena di... cioè non hanno un passo... La Juve poteva volare in queste giornate, poteva guadagnarsi un tesoretto. Secondo me si va verso una lunghissima volata, sì, dove conterà tutto, e quindi ci sta che Conte, Inzaghi e Sarri facciano anche i loro giochi mentali per provare a dare indicazione all'ambiente. Non è semplice, sì, però. E a maggior ragione in questo gioco di strategie mentali mi ha molto colpito ieri sentire Sarri di fatto avallare il teorema della vittoria a corto muso, che è stato sempre uno dei cavalli di battaglia di Allegri, che faceva venire l'orticaria a tanti tifosi della Juventus. Da ieri invece Sarri si è iscritto a quel partito lì, quello che le partite si vincono anche soffrendo all'ultimo istante, i campionati si vincono anche di un punto. Ultimo file a proposito di corsa scudetto, Inzaghi, attenzione, perché per la prima volta con la sconfitta di ieri sera la Juventus ha una proiezione finale inferiore ai 90 punti. Siamo a 89. Il mio pensiero, la mia tesi, è che se si vince lo scudetto e il primo numero in classifica è l'8, Inter, ma anche Lazio sono competitive. Sentiamo Inzaghi. Dobbiamo essere molto lucidi e razionali, cercando in questa settimana, come ho detto nella conferenza precedente, di fare l'ultimo sforzo, perché è stata una settimana molto intensa, molto dispendiosa, e quindi dobbiamo cercare di affrontare la partita di domani a Parma con grandissima attenzione. Allora, vediamo dopo il traffico anche le formazioni ufficiali di Parma-Lazio. Abbiamo modo anche di parlare della Lazio. Ricordo 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 SMS WhatsApp. La Juve, la sua crisi, Sarri, le sue difficoltà, o anche se volete raccontarci come va a finire secondo voi questa sera a San Siro alle 20:45 il derby di Milano. Un minuto, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. E partenza di Cristiano Ronaldo, tocco di ritorno verso Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, discesa libera, Cristiano Ronaldo, palla sul destro, ancora Cristiano Ronaldo, doppio passo, Cristiano Ronaldo, 1-0 Juve! Occhio all'errore che spalanca l'opportunità, Borini arriva l'1-1, il pareggio dell'Hellas, con Borini, la gioia di Borini per l'1-1. Dream on. La sensazione è quando andiamo in vantaggio, anziché sparare tutto per andare a chiudere la partita, cominciamo a cercare di gestire certe situazioni, lo facciamo anche con passività e c'è spesso nelle nostre partite, quindi è un aspetto da cercare di risolvere e risolvere velocemente. Can you feel a little love? Fischio finale, vince l'Hellas in rimonta 2-1 dopo un super gol di Cristiano Ronaldo. Borini prima e Pazzini sul rigore poi cambiano il volto di questo match. Dream on, dream on. Non possiamo lasciare punti così, questa è una squadra abituata a vincere largo, non è più il momento in cui si può vincere largo, quindi si deve vincere in corpo a corpo, nel punto a punto, e questi punti non si possono lasciare e soprattutto non si possono lasciare così. Allora, un paio di messaggi per dare il senso di quello che è l'umore dei tifosi della Juventus. Valerio, processo e condanna, la Juve quarta in classifica e fuori dalla Champions. No, la Juve non è quarta in classifica e fuori dalla Champions, però siamo quasi a metà febbraio e siamo arrivati al momento del raccolto e adesso ne parliamo. Insomma, quello che sta facendo vedere la Juventus autorizza un ragionamento. Poi ancora un altro amico che scrive: il CDA della Juventus deve ammettere di aver sbagliato il progetto sportivo del calcio divertente di Sarri, e anche questo è uno dei temi. Saluto Alessandro Berindelli, ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Allora, siete d'accordo che questa è la sconfitta con la S maiuscola che fa suonare l'allarme più ancora di quelle con Lazio e Napoli, per mille ragioni, Ale? Ma come tutte le cose bisogna essere... analizzare bene tutta la situazione come dall'inizio. Secondo me questo è un percorso nato male e in ritardo. Secondo me la Juventus quest'anno ha iniziato tardi la campagna delle cessioni, tardi la scelta dell'allenatore, tardi la scelta della programmazione tattica, la scelta dei giocatori che poi dovevano essere inseriti in un progetto che potesse poi condividere l'allenatore. Secondo me c'è stata un po' di confusione, tutto in ritardo, e questi poi sono i risultati, anche se poi parliamo di una squadra che è prima in classifica, che è agli ottavi di Champions. Sì, quindi, però Sarri lavora da 7 mesi ormai. Sì, non abbiamo quello che è sotto l'occhio di tutti, è che non abbiamo ancora visto un'impronta, cosa che invece nelle altre squadre, nelle altre realtà, questo allenatore aveva dimostrato di dare veramente un qualcosa in più alle proprie squadre sotto l'aspetto dei movimenti sia difensivi ma sia proprio anche dei movimenti d'attacco. A me mi sembra una squadra dove ognuno pensa a se stesso, cioè si vede dei grandi individualismi. Cioè, la Juventus oggi vince perché c'è una giocata del singolo e non è un qualcosa che nasce da un collettivo. Questo è, credo che lo possiamo dire tranquillamente senza offendere nessuno. Allora, rapido giro di opinioni, state scrivendo in tantissime, state anche chiamando 800 24 00 24, cominciamo a caricare gli ascoltatori e vi diamo spazio. Rapido giro di opinioni, Pierluigi Pardo, Alessandro Birindelli, Carlo Genta, qual è l'aspetto più preoccupante di quello che sta facendo vedere o non vedere la Juventus? Pier? Il trend, nel senso che è vero che la situazione di classifica della Juve non è preoccupante, però non è che la Juve è in rimonta, la Juve è in calo e soprattutto la Juve ha avuto delle occasioni. Napoli è arrivata in una serata dopo il pareggio della Lazio che aveva giocato male il derby, con l'Inter che aveva pareggiato in casa, era una grande occasione e la Juve ha completamente sbagliato partita. Ieri, dopo il pareggio della Lazio col Verona, aveva la possibilità di lanciare un segnale fortissimo e non l'ha fatto. La cattiva gestione dal punto di vista proprio della concentrazione delle gare è secondo me il tema più inquietante. Poi è vero anche quello che dice Alessandro, cioè comunque anche dal punto di vista della produzione, della fisionomia del gioco offensivo si vede poco. Ieri abbiamo visto che Cristiano Ronaldo è un fenomeno, come ringrazieremo i nipoti, lo racconteremo ai nipoti di aver visto giocare lui, Messi e pochi altri, perché è incredibile. Ieri si è fatto un gol da solo, ha partorito un gol da solo. La Juve ha delle qualità, ma dal punto di vista, anche le occasioni di ieri non sono occasioni che nascono da un'idea, da una filosofia di gioco. Sono quasi molto tutte invenzioni dei singoli, anche Douglas Costa che colpisce la traversa. Comunque per intenderci. Fa un calcio molto più sofisticato di quanto non facesse in passato, quindi questo ritardo cui faceva riferimento Alessandro è quasi fisiologico. Più preoccupante è il fatto che, come dice lui, ed è condivisibile, non hai l'idea di un collettivo, spesso i giocatori si mettono in proprio. E ieri sera Pardo ha fatto una domanda assolutamente pertinente, perché in questo momento la Juventus ha bisogno dell'adesione al progetto, a cominciare dai suoi leader, perché se non aderiscono al progetto allora si continuerà con questo avanti e indietro. Sì, non si può giocare quel calcio se non si è in 11. La risposta è preoccupante. Carlo, la risposta di Sarri a quella domanda secondo me è un po' preoccupante, perché quando lui ti dice sono settimane che ne parliamo, spero che i leader mi diano una mano, spero che qualcuno mi aiuti. È apprezzabile ovviamente la sincerità, veramente lo dico senza ironia, è molto bello, è molto molto sincero, però, alle volte è meglio una mezza bugia. Quella è la chiave, nel senso che qualcosa non sta andando come nelle previsioni, no? Alessandro, cosa significa quando un allenatore arriva a dire questa frase? Scusate, a me i numeri non è che piacciono tantissimo, però se si va a vedere tutti i gol che ha subito la Juventus, scommetto l'80% vengono da palle laterali o da situazioni di palla nativa. Cosa che o l'allenatore non ha la capacità di cambiare un certo tipo di atteggiamento in fase difensiva, o c'è poca voglia o poca ricerca di vincere duelli in area su queste situazioni, quindi la poca messa a disposizione dei singoli verso quello che chiede l'allenatore. Ecco poi il Sarri che avanza la stampa e dice spero che mi diano una mano, ma se te ti accorgi che molto probabilmente quello che gli sta chiedendo è poco digeribile da parte di qualcuno che viene da un percorso totalmente diverso e forse a un'età avanzata non ha neanche tutta questa voglia di rimettersi in gioco. Ecco perché dico, secondo me l'errore è stato a monte, no ora. Chi ha preso Sarri, secondo me, non ha preso in considerazione tanti aspetti di tanti giocatori che vengono da un percorso delle conoscenze tattiche, tecniche, difensive diverse da quelle che poi l'allenatore. Ma quindi cosa deve fare adesso Sarri, posto che evidentemente parte della squadra dopo 7 mesi non digerisce la difesa andando avanti? Più nemmeno di quello che ha fatto lo scorso anno al Chelsea, si è messo a disposizione del gruppo. Quindi capire più in fretta possibile quali sono le richieste e le esigenze della squadra ma anche dei singoli atleti. E poi chiaramente in questo anno servirà poi e ci sarà modo e maniera con società e tutti di costruire o di progettare qualcosa per poi andare avanti, se ci sarà la voglia di andare avanti. Sì, però è clamoroso che si stia parlando in questi termini di un progetto sportivo che è anche il secondo tentativo della Juventus nell'era Ronaldo di fare un assalto convinto alla Champions League. Trovo che nessuno di noi, alzi la mano, insomma, avrebbe previsto in luglio di trovarsi a metà febbraio a fare questi ragionamenti intorno alla Juventus, che, ripeto, perché state scrivendo in tanti, non è necessario semplicemente limitarsi alla lettura della classifica. Nella lettura della classifica la Juventus ha 54 punti, ha una proiezione di 89, quindi se ci si vuole limitare a quello non ci sono problemi, perché comunque un campionato intorno ai 90 punti è un campionato di altissimo livello, se ci fermiamo soltanto ai risultati. C'è però tutta una serie di segnali che è sciocco, sarebbe sciocco non sottolineare, scrive qualche amico. Il problema resta la fase difensiva, questo è Michele da Trapani, con Allegri non sarebbe successo, 23 gol subiti nelle prime 23 giornate l'anno scorso in tutto il campionato, la Juve di Allegri neanche nella stagione migliore in assoluto ne prese 30. Poi ancora, secondo tempo a Verona, entrano per il Verona Verre e Pazzini, per la Juventus entrano Dybala e Ramsey, se si perde c'è un problema. E di questo stiamo parlando. C'è anche forse un problema di condizione fisica, Alessandro? No, io volevo dire una cosa. Al di là della condizione fisica o degli aspetti tattici, ma giro una domanda a voi. Ma voi vedete cattiveria, voglia di vincere le partite a tutti i costi, arrivare in fondo nei giocatori? Io vedo, sembra quasi, gioco, faccio la partita, quello che accade, vede una Juventus che va a monopasso, non ha quel cambio di passo. Non cambia mai. Ma è mai. Aspetta, cioè, Ale, ti fermo perché vi faccio sentire in diretta Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, che è arrivato ai microfoni di Sky e sta parlando dell'episodio Milik. Il motivo per il quale non è andato a rivedere il VAR. Lui è convinto che si sia buttato. È chiaro che il fatto ci sia un VAR che evidenzia il tocco, comunque valla a vedere. Questo è inaccettabile, perché comunque abbiamo già subito un sacco di episodi del genere, mi riferisco anche all'Atalanta in casa, insomma. Poi nel calcio si sta a vincere, perdere, pareggiare, quello non è un problema, quello abbiamo altre colpe, non sta a me adesso dirlo, c'è il mister che parla e che dice queste cose, e poi ci sarà un confronto con la squadra, però a livello societario non possiamo accettare che ci sia un VAR e che l'arbitro dopo 5 minuti non lo vada a vedere. Allora, questa è la protesta del Napoli, 18:45, Varanatomi con Luca Marelli, e io devo dire, sottoscrivo le parole, perché sì. Veramente incredibile l'episodio che abbiamo visto in Napoli-Lecce, dove è stato ammonito per simulazione Milik, sì, che ha subito uno sgambetto. Poi possiamo discutere se ha accentuato la caduta, ma ammonire per simulazione un giocatore che subisce uno sgambetto nell'era del VAR è davvero qualcosa di incomprensibile. Apro e chiudo una parentesi: quello che è successo ieri sera a Verona, con un rigore dato su una chiamata straordinaria del VAR, su un episodio completamente invisibile a occhio nudo, tant'è vero che nessun giocatore del Verona protesta, mette il punto a una settimana di polemiche inutili basate sul nulla, che hanno, ne abbiamo parlato venerdì, riattizzato il clima dei complottisti e di tutti quelli che immaginavano un sistema in servizio per cercare di indirizzare l'esito di questo campionato. Apro e chiudo la parentesi. La risposta di Alessandro Birindelli è: questa Juve è monotono. Non ha mai, e secondo me Sarri se n'è accorto ieri, lo ha anche detto, no Pier, dopo la partita, non riusciamo ad azzannare le partite quando vanno chiuse. Ma sì, infatti è clamorosamente poco Juve, per come conosciamo la Juve, per quella che è stata la qualità principale della Juve di questi ultimi anni, quindi assolutamente sì, sull'episodio di Milik è veramente clamoroso, l'arbitraggio di ieri mi sembra invece sia stato perfetto, sono d'accordo con te assolutamente. No ai complotti e no ai complottisti. No, se c'era il complotto, però, ieri facevano in fretta, ragazzi, non l'ha visto nessuno. Tutti a casa tranquilli. Torniamo. Sì, ma infatti, voglio dire, questo proprio è un ragionamento sul quale è giusto solo mettere dei paletti. Però è altrettanto vero riconoscere quando ci sono gli errori. Certo. Gli errori sono tanti, secondo me vanno in tante direzioni diverse, lo vedo dall'inizio dell'anno e torniamo al famoso discorso di due stati fa, quando la prima giornata di campionato eravamo al collegamento telefonico e io dissi: occhio perché si alza l'asticella, quindi un rigore come quello di Milik già è difficile non darlo visto dal campo, ma se poi tu hai il VAR diventa inaccettabile, trasformarlo in simulazione, poi trasformarlo in simulazione del Lecce, che ha giocato una partita di grandissima praticità, e Liverani è un altro che va sottolineato, sta facendo un grande lavoro, perché insomma sì, Lecce ammazza grandi, ha pareggiato con Juve Inter, no, ha vinto a Napoli. Bene. Ha anche, forse anche qualche punto in meno rispetto alla cifra, alla sensazione e all'idea di squadra, ha avuto una marea di infortuni, l'abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, Liverani, Quindi insomma merita veramente un grande applauso. Il Lecce fino alla fine proverà a salvarsi, in questo momento è salvo e sta facendo un grande lavoro, però quel rigore lì c'è, e basta. Nell'epoca del VAR è incredibile che non lo si vada a rivedere. Noi dobbiamo avere il coraggio sempre comunque di definire le cose con il loro giusto nome, e questo è errore, esattamente come errore fu quello di Lautaro Martinez, mi viene in mente, insomma, con l'Atalanta, e altri che noi puntualmente tutte le domeniche cerchiamo di etichettare con grande onestà mentale, senza pensare a complotti ed altro. Allora, saluto e ringrazio Alessandro Birindelli. Ciao Alessandro. Ciao, grazie. A voi. Gianni da Firenze, ci sei? Sì. Allora, stai lì perché ripartiamo da te non appena torniamo. Un minuto e siamo qua. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. 17:36, eccoci qui le formazioni ufficiali di Parma-Lazio. Parma con Colombi in porta, Darmian, Jacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. La linea difensiva a 4, Hernani, Brugman e Kurtic. A centrocampo il tridente formato da Caprari, Kuzka e Cornelius. La Lazio con il 3-5-2, ricordiamo che ci sono due squalificati, che sono Radu e Milinkovic-Savic, c'è Stracoscia in porta, la linea difensiva a 3 con Patrick, Luiz Felipe e Acerbi, a centrocampo gli esterni Marusic e Ioni e poi in mezzo Parolo, Lucas Leiva e Luis Alberto, davanti Caicedo e Immobile. Saluto il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, ciao direttore. Ciao Dio. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori da Tutto Sport. Aspetta perché c'è Gianni da Firenze che ci aspetta da qualche minuto pazientemente. Gianni, eccoci. Sì, buonasera. Ti ascolta anche Xavier Iacobelli oltre a Pierluigi Pardo. Vai. Bene, l'ascolto volentieri anche lui, perché io penso che la Juve di Sarri, che faccia rimpiangere perfino un allenatore modesto come Allegri, perché questa Juve, a parte Sarri non c'ha lo stile Juve, è peggiorato in difesa, c'ha degli attaccanti penso più forti del mondo, no? Uno pensa a Douglas Costa, Dybala, Ronaldo, Higuain, no? Cioè, se ne vuole altri non lo so, riesce a perdere le partite clamorose. Ora non lo so, io ecco, son quelli che chiamava Allegri, per esempio. Quindi siamo alla riabilitazione di Allegri, fa più schifo, Gianni? Fa più schifo anche di quella dell'anno scorso. Ecco. Vabbè. Diciamo è peggio, si può usare anche un altro termine, però abbiamo capito, siamo alla riabilitazione di Allegri, direttore. Ma intanto mi permetto di sentire dal ricorso all'aggettivo modesto quando si parla. Bravo, di Massimiliano Allegri. Esatto, esattamente, se è modesto Allegri, allora c'è... Nel quinquennio bianconero ha allineato 11 trofei, perché capa Scudetti e Coppa Nazionale. Criticabile come tutti, ma modesto. Può non piacere, ma modesto anche no. È davvero paradossale questo richiamo all'allenatore della Juventus che ha preceduto Sarri, perché rammento benissimo ciò che si diceva sul conto di Allegri a cavallo fra aprile e maggio, quando la sua avventura in bianconero era agli sgoccioli. La verità è un'altra. La verità è che ha ragione l'ascoltatore quando sottolinea la fragilità difensiva assolutamente inusitata della Juventus, che ha incassato 23 gol in 23 partite. Sappiamo molto bene come gli scudetti si vincano partendo da una solida retroguardia. Non è un caso che l'Inter, che stasera in caso di vittoria può agganciare i bianconeri, vanti la miglior difesa del torneo sinora. La verità è che a un certo punto Sarri deve fare delle scelte precise. È dall'inizio della stagione che è pincolante fra il tridente, che a volte è spuntato, soprattutto per quanto riguarda Higuain, che nell'ultimo periodo non brilla per condizioni di forma eccellenti, e il trequartista alle spalle delle due punte. Quindi io penso che sia arrivato il tempo di scegliere uno schema che sia definitivo, e anche questa continua girandola, che peraltro vede in Douglas Costa un elemento di fondamentale importanza, che però purtroppo troppo frequentemente non c'è quasi mai, incorre in infortuni o in acciacchi muscolari, è arrivato il tempo delle scelte. Non c'è più tempo per essere un divaghi, per non fare delle scelte anche a scapito di alcuni fra i giocatori importanti della rosa. Ma diciamo che il cantiere deve chiudere, il cantiere degli esperimenti. Oggi mi ha molto colpito la prima pagina di Tutto Sport: Sarri, virgola, non va. Chiedo, perché è la prima volta, insomma, che si va così dritti su Sarri, oltre che in generale su una valutazione della Juventus. Allora, Tutto Sport ha un peso, nella, in tutto ciò che riguarda l'ambiente juventino. Ti chiedo, direttore, se è l'apertura di un file che fin qui è stato chiuso, cioè quello della valutazione anche critica e immediata del lavoro di Sarri. No, è l'apertura di un capitolo, gioco forza, che si impone alla luce della nuova sconfitta esterna della Juventus, che è stata battuta dalla Lazio, che è stata battuta dal Napoli e che è stata battuta da un grande Verona, perché poi bisogna assolutamente evidenziare i meriti di Juric, che sta ricalcando alla guida dell'Hellas le orme del suo maestro Gasperini, perché il gioco del Verona ha molti punti comuni con il gioco dell'Atalanta gasperiniana. E soprattutto ciò che ha colpito ieri sera è stata la condizione atletica di una squadra che era la terza partita nel breve volgere di 6 giorni, 2 delle quali queste partite giocate in trasferta, una a San Siro contro il Milan e l'altra all'Olimpico nel recupero contro la Lazio, che è una delle 3 formazioni che si batte per il titolo. Quindi io penso che questa settimana, che porterà poi la Juventus all'impegno di Coppa Italia e poi prima contro il Brescia, poi c'è la Coppa Italia, poi ci sarà ancora l'appuntamento fondamentale della stagione, che è l'andata all'ottavo di finale della Champions League contro il Lione. È arrivato il momento delle scelte, non si può più tergiversare, anche perché, viva Dio, questo è un campionato bellissimo. Eh sì. È un campionato che, al contrario di quanto registrato negli ultimi anni, basti pensare che un anno fa di questi tempi l'Inter era lontana anni luce dalla Juventus, e invece adesso è a 3 punti e stasera potrebbe addirittura agganciarla dopo 23 partite. Questa è una bellissima notizia per tutti, ovviamente, tranne che, certo, per i tifosi della Juventus, stanno che preferivano forse l'anno scorso. Stanno aspettando Chiellini come la manna, però più che assetto definitivo, io torno al concetto di adesione a questo piano, perché non posso dimenticare, e quando la Juventus perde o vive queste giornate, tornano in mente, almeno a me, le parole di inizio stagione di Bonucci, quando diceva: Sarri ci chiede cose opposte, non diverse, ma opposte rispetto a quelle che siamo stati abituati a fare. Ora, si tratta, ripeto, di adesione a questo piano da parte dei giocatori chiave della Juventus e dello spogliatore della Juventus. Non so se questa adesione ci sia. E la un'altra Juventus, una partita come quella di Verona, una volta che era passata in vantaggio, non avrebbe mai persa. Ma trovo che questa sia una considerazione quanto mai pertinente, ma io non penso che non ci sia adesione da parte del gruppo bianconero al calcio di Sarri. Io credo che ci siano difficoltà di applicazione, difficoltà anche acuite da un continuo alternarsi degli interpreti, soprattutto per quanto concerne lo schema offensivo. Dybala stesso, che è, a mio avviso, rappresenta il presente e il futuro della Juventus, tant'è vero che le trattative per prolungare il contratto fino al 2025 sono a buon punto. Non può essere impiegato ogni volta mezz'ora a partita e dopodiché Sarri afferma quanto sia blasfemo tenerlo in panchina. Ma allora bisogna prendere una decisione anche per ciò che riguarda... Definitiva. Ecco, definitiva. Sulle gerarchie. È l'aggettivo più appropriato, perché bisogna stabilire delle gerarchie. Sappiamo benissimo quale sia lo stereotipo del fatto che siano tutti titolari, che non esistano più titolari di serie. Non è così. Non è così, perché il campo detta una gerarchia, e se questa gerarchia non viene delineata quando ormai siamo abbondantemente dentro il girone di ritorno, con gli impegni di Coppa Italia e di Champions League che attendono la Juventus, si rischia poi di fare capitomboli come quelli di ieri sera a Verona, dove, ripeto, la Juventus ha subito un'autentica lezione di calcio, sì, dal Verona, sì, di Juric. Sì, sì. Cosa che è già successa 2 volte con la Lazio, un po' meno a Napoli, ma anche a Napoli era stata una caduta preoccupante. Grazie, direttore. Grazie a voi, buona serata a tutto sport. Grazie a Xavier Iacobelli, 800 24 00 24. Francesco da Frosinone, vai. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ma il mio non è un intervento, diciamo così, professionale dal punto di vista calcistico, sebbene abbia giocato a calcio, ma comunque questo non vuol dire niente, è soltanto una riflessione. Io mi chiedo questa cosa: in un campionato di calcio in cui le partite scontate, dalle partite scontate emergono dei risultati veramente da rimanere basiti. Vedi Juventus-Napoli, il secondo gol del Napoli, i giocatori della Juventus tutti fermi nella linea difensiva, il portiere che si tuffa 2 minuti dopo il tiro del gol. Oggi una partita, è vero che il Lecce di schiaffetti ne ha fatti tanti, ma veramente tanti, pure alla Roma nei tempi passati, ma pure oggi una partita scontata insomma, una squadra che doveva vincere, insomma, non vince una partita. Un allenatore del Napoli, scusate, arriva alla chiusura, però, perché siamo qua sul traffico. Un allenatore Ancelotti, tra i primi tre nel mondo che si capisce di calcio, viene tolto dal Napoli nel momento in cui sta vincendo 4-0 contro il Genoa, toglie. Ma insomma, a me mi fa riflettere questa cosa, insomma, sì. Ecco, veramente mi fa riflettere tanto. E parlate anche di questo. Sì, ma guarda, facciamo così, ti faccio rispondere Pierluigi Pardo, posto che non ho capito esattamente dove volevi arrivare, Pier. Anch'io, però ho capito. Anche che perché partite scontate ce ne sono poche, Ce ne sono poche, no, ma devo dirti la verità che, guarda, ieri sera poi a cena con Balzaretti ne parlavamo, lui poi vive spesso in Francia e gira anche tutta l'Europa, e mi diceva una cosa bella, cioè che la percezione del nostro calcio è in netta crescita, la percezione del nostro campionato è in netta crescita, cioè c'è un livellamento solo verso l'alto, c'è una ripresa del nostro calcio e credo che come effetto collaterale di tutto questo ci sia il fatto che ci sono realtà che oggi riescono a essere molto più competitive. Quindi se la squadra che vincerà il campionato sarà sotto ai 90 punti, beh, insomma, forse è un segno che il campionato sta diventando più equilibrato e nel merito, diciamo, delle medio-piccole che sono più competitive rispetto a prima. E poi non lo so, perché la domanda, cioè, sì, devo essere sincero, grazie per i complimenti Francesco, ma non si capiva un granché della domanda. Comunque ti abbiamo risposto. Traffico, un minuto, parliamo delle romane, della crisi della Roma e della Lazio che fra un quarto d'ora in campo con il Parma. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Io ho visto paura in questa squadra oggi, e questa è l'ultima cosa che possiamo fare, giocare con paura. Paura di che? È difficile, devo lavorare principalmente la testa dei giocatori, perché penso che in questo momento è il principale problema. Stiamo facendo cose ottime, sensazionali, ma dobbiamo continuare, probabilmente non trovando una Juventus o un Inter con questo ritmo, in altri campionati sicuramente saremo al comando. Queste sono le due facce di Roma, la crisi della Roma e la Lazio, fra 12 minuti in campo per salire a meno uno dalla Juventus. Saluto Alessandro Barbano, Corriere dello Sport. Ciao Alessandro. Ciao. Buonasera. Allora, intanto vi dico che l'Italia ha perso in Francia, parliamo del 6 nazioni di rugby, 35-22, però giù il cappello perché ha fatto una grande partita. Quindi siamo passati da 42-0 contro il Galles, che insomma ci ha scioccato per come era maturato, a una partita in cui siamo stati in campo fino alla fine, abbiamo segnato tre mete e quindi per una volta applausi anche nella sconfitta alla nostra nazionale. Oh, mi dite Alessandro Barbano, per Luigi Pardo, qual è il male che affligge la Roma, Alessandro? Ma io l'ho scritto oggi sul giornale. Credo che questo incredibile ribaltamento di risultati si spieghi come l'effetto di un vuoto gestionale, perché la transizione tra una proprietà e l'altra, nelle condizioni di un passaggio che anzi dovrebbe essere vantaggioso per la società, per i calciatori, eccetera, non dovrebbe avere l'effetto che ha avuto. Invece la transizione si rivela un buco nero che rischia di inghiottire la Roma da Natale in poi, coincide proprio con il momento in cui si palesa la certezza di una trattativa che porterà la Roma verso Friedkin. Che cosa è accaduto in questo mese? Beh, è accaduto anzitutto che la Roma ha perso un calciatore come Zaniolo per 4-5 mesi, quindi per la fine per il resto del campionato, un calciatore importante, e il mercato di gennaio della Roma è stato un mercato assolutamente impari rispetto alle necessità, e rispetto appunto alla gravità dell'infortunio e rispetto anche al rafforzamento che altre squadre invece hanno compiuto puntando evidentemente a rinforzare la rosa. Beh, cioè, ma non trovi che sia fisiologico rispetto a quanto hai detto prima? Cioè si sta cambiando il padrone del vapore, è quasi normale che si cerchi, cioè che non ci siano grandi investimenti, grandi idee, grandi aspettative sul mercato. Beh, è chiaro, però questo può accadere, però è evidente che ha un impatto, è una transizione. Io non lo so quali sono gli impegni che Pallotta e Friedkin hanno assunto. Resta il fatto che nel momento in cui il cambiamento avviene con la Roma che perde la Champions, certamente questo passaggio porta in dote alla nuova proprietà una squadra che è molto depotenziata rispetto alle possibilità invece a una squadra che punta alla Champions. Quindi il tipo di accordi non li conosco, però è anche, devo dire, che una società come quella di Pallotta, che per 9 anni ha gestito la Roma senza nessun risultato, che ha dimostrato negli ultimi 2 anni di aver sbagliato tutte le scelte, che è stata messa sotto accusa dalla pubblica opinione, dalla stampa, eccetera, e che in qualche modo vuole uscire con un minimo di dignità, forse un acquisto degno sul mercato per difendere un posizionamento e una ricostruzione che pure sembrava potesse iniziare, sarebbe stato funzionale, sarebbe stato un gesto di dignità che non c'è stato, questo sicuramente. Poi c'è un altro elemento. Aspetta Pier, mi sembra, così inserisco anch'io l'altro elemento, mi sembra di aver capito, sì, tra l'altro leggendo oggi alcuni retroscena, che in realtà in questo momento, diciamo, sul banco degli imputati o comunque sotto i riflettori ci sia il lavoro di Fonseca, cui viene chiesta, che viene chiesto conto di questa mancanza di continuità. Non so se ha ragione o meno, Pier. È un momento in cui la squadra gioca malissimo, è un momento in cui la squadra ha proprio una mancanza di energia. La partita di Bologna è stata, da questo punto di vista, forse la peggiore, ancora peggio di Reggio Emilia col Sassuolo. La Roma è passata in svantaggio e non riusciva a reagire, il Bologna continuava ad attaccare, è stata dominata a tratti in casa dal Bologna, che sta facendo benissimo, però per carità è una squadra con un budget che è nettamente inferiore. Io non so, certo la componente societaria sicuramente può incidere, però ci sono anche responsabilità tecniche. L'allenatore è un allenatore bravo, l'ha dimostrato in tanti anni di carriera, non butterei via tutto, però una riflessione va fatta in questo momento e va fatta forse anche sulla cifra tecnica di questa squadra. Ma non è un giochino semplice far passare il concetto che bisogna chiedere conto a Fonseca. È chiaro che è l'allenatore che deve rispondere delle prestazioni di una squadra, però se il quadro è quello che ci disegnava complessivamente prima Alessandro, la fila delle responsabilità e delle persone a cui chiedere conto è probabilmente più lunga prima di arrivare all'allenatore. Ma infatti, le cause e le responsabilità sono di tutti, ripeto, io non metterei assolutamente in discussione l'allenatore in questo momento, anzi gli darei porta, però è oggettivo che in questo momento anche lui ci sta capendo poco, perché la squadra produce pochissimo, perché la condizione fisica della squadra non mi sembra all'altezza, perché ci sono dei giocatori che sono stati giustamente, poi insomma l'ambiente è un ambiente innamorato, quindi è un ambiente che appena c'è qualcosa di bello giustamente si emoziona in positivo, e penso per esempio a Mancini, penso a Smalling, penso a Veretout, che sono giocatori importanti, però poi insomma se guardiamo la cifra complessiva di questa squadra, secondo me ci sono pochi punti di riferimento. Cioè, la Lazio è una squadra fatta, finita, con 4-5 giocatori straordinari e anche gli altri. La Roma è da 2 anni un progetto che cambia. La Roma ha tanto talento potenziale, però abbastanza disaggregato, ed è un momento complicato. Ma certo l'infortunio di Zaniolo ha inciso, anche l'infortunio di Avarà secondo me ha inciso in un certo tipo di equilibrio, Mkhitaryan che sta dentro e fuori ha inciso. È difficile ripartire, però insomma... È obbligatorio, perché il quarto posto segna una grande differenza. Alessandro, su Fonseca, finito del mirino. Sì, voglio dire, Fonseca è un allenatore bravo, perché è un allenatore che è arrivato a 39 punti inaspettatamente, perché all'inizio la Roma non sembrava potesse fare il campionato che poi ha fatto fino a Natale, sostanzialmente. Però come è arrivato? È arrivato con uno stato di grande sacrificio, perché ha avuto molti infortuni, ma anche di grazia di alcuni giocatori decisivi come Dzeko, che è un giocatore notoriamente negli ultimi anni discontinuo, che però nella parte iniziale del campionato è stato decisivo, come Zaniolo, come Pellegrini. Poi succede che Dzeko perde continuità, e si sapeva, perché non è un ragazzo, non hai un rincalzo vero, Zaniolo si infortuna, Pellegrini ha qualche problema anche lui, la società non interviene sul mercato, è ovvio che tutto questo lo paghi, è evidente che tutto questo lo paghi. È vero anche che Fonseca non è un pastore di anime, quindi probabilmente quella ricomposizione di uno spogliatoio problematico che altri allenatori più carismatici sono riusciti a realizzare, a Fonseca viene difficile. Viene difficile, lui è un freddo, e si vede anche la gestione del caso Florenzi è stato un errore del tecnico, perché Florenzi è comunque in una squadra deromanizzata una componente identitaria e anche un bravo giocatore che, anche se non è esattamente il modello di giocatore che tu vuoi, sì, però forse sarebbe servito per tenere accesa, esatto, quella scintilla. Dobbiamo fermarci perché c'è il GR. Allora io ringrazio e saluto Alessandro Barbano, ti leggiamo a partire ancora da domani sul Corriere dello Sport. Grazie Alessandro. Grazie, ciao. A voi. E grazie anche a te, Pier. A domani. Ciao ragazzi. Sentiamo, ciao, domani, ciao, alle 2. Ciao, ciao, ciao. Invece noi ci sentiamo dopo il GR delle 18. Apriamo la lunga pagina sul derby di Milano e poi seguiamo il primo tempo di Parma-Lazio. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Pubblicità. Valorizza i tuoi risparmi con Kebanca. Con conto deposito hai l'1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata 6 mesi entro il 29 febbraio 2020. Interessi in anticipo. Fogli informativi su kebanca.it. Kebanca. Gruppo Mediobanca. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra il problema dell'anticipo. Sottraendo la rata, la radice quadrata del budget totale, moltiplicando per il tasso dell'interesse. A destra è facilissimo, l'anticipo è uguale alla rata. Con Volkswagen Veicoli Commerciali la formula è semplice. Fino al 29 febbraio, caddy furgone è tuo con leasing finanziario e anticipo uguale alla rata. Da 169 euro più IVA per 59 mesi. TAN 2,49, TAEG 3,97 per aziende e partita IVA. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. L'idea in più per chi lavora. Per migliorare la tua infrastruttura IT progettiamo insieme la soluzione Cloud Enterprise perfetta per le tue esigenze. Perché con Aruba Enterprise il cloud è a forma d'impresa. Scopri le soluzioni IT di Aruba Enterprise. La Nordica Extra Flame. La nuova generazione di stufe e caminetti a legna e pellet. Cerca il rivenditore più vicino sulla nordicaextraflame.com. La Nordica Extra Flame riscalda la vita. Forum Software Industriale. Competitività digitale oltre l'industria 4.0. Sentiamo Francesco Tieghi, responsabile marketing e comunicazione Servitecno. Il Forum Software Industriale è per noi di Servitecno un appuntamento imperdibile, un punto d'incontro con clienti e prospect interessati alle soluzioni di digitalizzazione per l'impresa 4.0. Quest'anno proponiamo innovative soluzioni per connettere al cloud impianti e macchine in modo sicuro ed affidabile, le soluzioni Edge Computing ad alta disponibilità di Stratus Technologies e naturalmente tutta la famiglia di software industriale di GE Digital. Servitecno si occupa anche di cyber security industriale, per questo vi aspettiamo con il nostro esperto Mario Testino alla sessione dedicata. Forum Software Industriale è organizzato da Messe Frankfurt Italia e promosso dal gruppo software di Agni Automazione. Martedì 18 febbraio, Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. La partecipazione è gratuita, con riconoscimento di crediti formativi. Info su forumsoftwareindustriale.it. Tutti convocati. Siamo focalizzati, siamo concentrati sul fatto che dobbiamo giocare una partita che vale 3 punti. Poi sappiamo benissimo che anche un derby, quindi aumentano ancora di più le difficoltà, perché quando sono strade cittadine c'è comunque la volontà di primeggiare. Tutte le partite si preparano per vincere, ma se ci sono partite che valgono di più sono proprio queste, e quindi credo sempre che per vincere bisogna giocare meglio degli avversari. Il Milan vale molto ma molto di più dei punti in questo momento in classifica. È un'ottima squadra, hanno aggiunto un campione come Ibra che sicuramente gli ha portato più, gli ha portato esperienza, gli ha portato consapevolezza nei propri mezzi, gli ha portato fiducia, grandissimo rispetto per Ibra. Ma noi dobbiamo avere la faccia di Ibra domani, carica, decisa, determinata, entusiasmo, e giocarci la partita al massimo delle nostre possibilità. Intanto Kurtic, con la faccia di Kurtic, ha dato la prima sveglia di questo Parma-Napoli. 9° minuto, calcio di punizione dal limite insidioso. Stracoscia molto bravo, si è disteso sulla sua sinistra, ha messo la palla in calcio d'angolo partita che è iniziata con un Parma che non è per nulla intimorito dal confronto con la terza in classifica, che sogna di arrivare a un punto dalla Lazio. 800 24 00 24, sta per arrivare Franco Ordine, ve lo annuncio, abbiamo un'ora che dedichiamo quasi interamente al derby, ma voi siete liberi di telefonare per parlare del tema che volete, e vedo già Francesco da Napoli che vuole parlare della Juventus qualche istante. Arriviamo da te, saluto Marco Barzaghi, ciao Marco. Ciao. Buonasera a tutti da San Siro. Eccoci qui, allora Ibrahimovic convocato ci sarà, ma non era nemmeno quotato, poi cercheremo di capire quali sono le condizioni dello svedese, che chiaramente da una settimana di fatto si allena da solo o pochissimo con il gruppo. Invece è molto più interessante, a 2 ore e 40 minuti dal via della partita, capire come gioca l'Inter di Conte. Hai qualche sensazione, Marco? Allora, c'è tanta pretattica, intanto possiamo dirlo, che è stata fatta proprio da Conte in questi giorni, anche questa mattina nella rifinitura. Io mi aspetto lo schieramento con Eriksen e Lukaku, quindi una punta sola, centrocampo più folto, con Vecino, Barella e Brozovic, ed Ambrosio e non Godin in difesa al posto di Bastoni, insieme a De Vrij e Skriniar. In porta Padelli, perché Handanovic non rischierà, troppo pericoloso giocare con una frattura comunque anche in vista dei prossimi impegni. Questa mattina però ha provato Godin e anche Sanchez con due punte, penso per mischiare un po' le carte, per cercare di sorprendere comunque Pioli con Eriksen e Lukaku, perché anche una esclusione di Eriksen farebbe un po' troppo rumore. Certo, perché si tratterebbe certamente non di una bocciatura, però Eriksen è arrivato per essere un valore aggiunto immediato di questa rosa, e però, insomma, sai, già stato criticato secondo me esageratamente dopo la partita di Udine. Certo Giovanni, però in questa partita, conoscendo un po' Conte e insomma i meccanismi dell'Inter, che sono particolari per mille ragioni che conosciamo, insomma, per l'Inter è una partita della vita, così come è per la Lazio. Questa è una partita da vincere a tutti i costi, in cui c'è un solo risultato. Io potrei anche capire se Conte decidesse di andare sull'usato sicuro, cioè sulla squadra che lo ha portato fin qui, magari tenendosi Eriksen di rincalzo, Marco. Di rincorsa. Marco? Sì, è saltato un attimo la linea, se mi ripetete un attimo. Sì, insomma, non sarebbe sorprendente se alla fine invece Conte scegliesse di andare sull'usato sicuro, che è diciamo il 3-5-2 puro con i due attaccanti, sì, non con Eriksen. Penso che appunto giocando con una punta sola, anche perché non ho visto un Sanchez comunque entusiasmante, mancando Lautaro Martinez, potrebbe essere proprio questo il modo per schierare contemporaneamente Eriksen e il centrocampo robusto e la squadra collaudata. Bisogna vedere se Lukaku poi non sarà troppo solo, però io mi aspetto questa soluzione. Conoscendo Conte, anch'io ho questo dubbio, perché chiaramente lui è un conservatore, non ha quasi mai cambiato, a parte Udine, però con risultati, come dicevi, non buoni, il suo 3-5-2, mettendo il trequartista, la squadra ha sofferto proprio lì in mezzo al campo, dove conta di vincere il derby Conte. Sì, la realtà è che Conte dovrà fare in fretta e non avrà tempo per sperimentare, perché l'Inter gioca di fatto ogni 3 giorni nelle prossime settimane, tutte partite anche di una certa consistenza, sia in campionato, dove ricordiamo domenica prossima c'è Lazio-Inter, il 1 marzo c'è Juventus-Inter, in mezzo c'è la semifinale con il Napoli di Coppa Italia, poi riparte l'Europa League, 16esimi di finale contro Ludogorets, quindi non c'è tempo per sperimentare, ma c'è la necessità di rendere Eriksen funzionale al gioco di Conte e a questa squadra, perché è stato preso per far fare il salto di qualità, e quindi è normale che anche Conte si aspetti questo. Grazie Marco. Ciao. Ciao Marcone. Ciao ciao. Intanto vi racconto che al 12esimo c'è stata la prima occasione anche per la Lazio, se l'è costruita Ciro Immobile, che si è portato all'interno dell'area di rigore il pallone sul destro, ha chiuso il suo rasoterra un po' troppo sul primo palo, e dunque il pallone è sfilato via senza che Colombi dovesse intervenire. Lazio però vicina al vantaggio. 800 24 00 24, Francesco da Napoli. Francesco, pronto? Eccomi, vai. Sì, buonasera. No, vabbè, io volevo dire che finalmente Sarri si sta dimostrando per quello che è, cioè un fuoco di paglia. È un allenatore che si è praticamente per mezza stagione giocata bene a Napoli, perché di 3 anni una stagione è stata quella buona. È campato di rendita. Che tu quindi mi dici che i primi due anni di Napoli male e soltanto il terzo anno. Sarri è un allenatore che da quando allena ha avuto una stagione buona, poi ha vinto l'Europa League giocando con uno squadrone e si è andato a vedere contro chi ha giocato contro il Ludogorets, ha giocato contro lo Slavia Praga, ha giocato contro delle squadre, l'unica un po' più di livello l'ha battuta ai calci di rigore. Sì, non è un allenatore. Conosco tonnellate di squadre che contro quelle squadre lì che tu hai citato fanno brutte figure e vanno fuori. Poi alla fine che conta il risultato, l'ha vinta, ha alzato quella coppa con quindi ha centrato un grande risultato. Ora non sarei così drastico nel dire che Sarri è un fake. Sta facendo fatica. E ne abbiamo parlato per un'ora. Fatica, però... Sta facendo fatica, vediamo come ne esce. Però io continuo a pensare che il suo approccio, il suo allunaggio su un pianeta così strano come quello della Juventus sia stato meno pericoloso, meno così invasivo di quanto non pensassi. Adesso si tratta di fare un altro pezzo di strada. Tanto ci ha raggiunto Franco Ordine. Ciao Franco. Eccoci qua. Buonasera. Allora, se sei d'accordo facciamo il traffico. Io e poi sono sempre ci tuffiamo nel derby, ti diamo la notizia che Conte ha fatto grandissima pretattica anche negli ultimi minuti. Abbiamo sentito prima Marco Barzaghi. Ho sentito. E quindi ancora non siamo in grado di capire se giocherà col 3-5-1-1 Eriksen insieme a Lukaku, col 3-5-2. Poi c'è anche il tema D'Ambrosio Godin, perché attenzione, se dovesse esserci la scelta di D'Ambrosio al posto di Godin, da un certo punto di vista sarebbe un'indicazione di cui discutere e su cui sarebbe anche giusto parlare. Traffico, sedicesimo Parma-Lazio 0-0, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. La verità è che l'Inter ha fatto molto meglio di noi a inizio campionato e fino a dicembre, la verità è che adesso noi stiamo cercando di recuperare posizioni e che stiamo facendo bene, e credo anche che arriviamo bene a questo derby. 18esimo minuto, Parma 0, Lazio 0, gara molto equilibrata ma che si gioca anche su grandi ritmi, quindi assolutamente da seguire. Oh, carissimo Franco, da ieri si dibatte per le vie di Milano su quanto valgano i 19 punti di distacco che accompagnano Inter e Milan a questo derby. Conte ha detto: guardate che il Milan vale molti più punti. Pioli, lo abbiamo sentito, ha detto: ma a me non interessa, io sono arrivato qui, sto cercando di recuperare. Eppure la storia dice che quando c'è un divario così alto in classifica di solito il derby è segnato, al di là delle scaramanzie. Sì, non so, esatto, al di là delle macumbe. Non soltanto lo dice la storia, ma lo certifica anche l'almanacco Panini. E devo dire che da questo punto di vista, secondo me, i 19 punti in classifica di differenza sono soprattutto la differenza tra complessivamente l'Inter in questo momento, reduce da l'arrivo di un allenatore di primissima fascia, Beppe Marotta che comanda la società, un mercato di grande spessore, e la differenza rispetto al Milan, dove obiettivamente il proprietario, l'azionista, non è quello definitivo, dove la D è uno che per la prima volta si occupa anche di calcio oltre che di conti, e dove c'è stato un ricambio incredibile nel giro degli ultimi anni tra la coppia Fassone-Mirabelli e poi prima Leonardo Maldini e adesso Boban Maldini. Cioè, noi siamo abituati a Milano a vivere di cicli, dico siamo abituati perché Radio 24 è a Milano, viviamo molto da vicino le vicende di Inter e Milan, non solo ovviamente. Questo ciclo è abbastanza segnato, cioè c'è un club che ha un progetto oramai disegnato, una strada, magari ci metterà un mese, un anno, due anni, tre anni a tornare a vincere o comunque tornare a certi livelli, e c'è un altro che io credo sia indietro di qualche stagione. Sì, allora, in questo momento, per fare una metafora che la gente capisce al volo, l'Inter ha attraversato il fiume e si trova sull'altra sponda. Il Milan è ancora in mezzo al fiume e tra l'altro ci sono minacce di coccodrilli intorno. È in preda alle correnti. A parte il fatto che questa discussione fosse un processo, sarebbe nulla data l'assenza di Biasin. Quindi, esatto. Quindi, è vero. Quindi avanzo questa mozione. Sì, che è sulla strada di ritorno da Sanremo, no, l'abbiamo sentito. Piegato in due dalla lunga Martona. Obiezione accolta. Non mi interessa se è a metà strada dove è Biasin. Il fatto è che non è qui e quindi... E anche lui in mezzo al fiume. Sì, no, poi sul Milan, insomma, tornando alla partita di stasera, al di là dei cicli, l'altro giorno hai fatto la considerazione più perfetta che si poteva fare. Guardando al campo, il Milan, i risultati recentemente ottenuti sono più bugiardi di Pinocchio, Verona compreso, certo. Dove tutte le avversarie hanno giocato meglio del Milan, perché il Milan ha un vizio che l'Inter deve far valere, e cioè la debolezza nella fase difensiva sulle due fasce. Cioè, io guardavo l'Udinese andare in porta con tre passaggi, il Verona uguale. Esattamente così, ma questa è una delle caratteristiche della preparazione di questa partita. Ieri Pioli diceva: abbiamo preparato una particolare strategia. Da quello che si capisce, da quello che si intuisce, la strategia è Çalhanoğlu appiccicato a Brozovic per impedire a Brozovic di fare il metronomo. Cosa già vista a San Siro, mi viene in mente lo Slavia Praga, il Borussia Dortmund. Tante volte, bravissimo. Quella dell'Inter, secondo me, mi sembra scritta, e cioè i due pestoni laterali che vanno a martellare da una parte Theo Hernandez e dall'altra Conti. Allora saluto Mario Ielpo, ciao Mario. Ciao, buonasera a tutti. Quindi cosa deve fare il Milan per vincere questo derby? Beh, innanzitutto credo debba passare indenne il primo quarto d'ora, 20 minuti, e almeno se dobbiamo partire da quello che si è visto a più riprese le partenze dell'Inter, parte molto forte, quindi Milan deve rimanere in partita. Se riesce a rimanere in partita, poi dopo piano piano penso che qualcosa si può tirar fuori, ecco, anche sperando che Ibra azzecchi la partita della stagione, perché sulla carta se no il Milan è un po' indietro. Cioè giocarla sui nervi dell'Inter, sì. Praticamente. Sì, tirarla lunga e giocarla sui nervi dell'Inter, che chiaramente avrà attaccherà, approccerà la partita con la bava alla bocca guardando la classifica. Certo, dovrà un pochettino sfruttare l'arma anche un po' di quello che ormai non si usa più chiamare contropiede, però insomma alla fine quando mi fa un po' ridere, io sono un po' fissato, tutti vogliono giocare alla stessa maniera, partendo dal basso, tirando la palla, facendo le cose. Però se ci sono anche le categorie, le squadre più forti e le squadre meno forti, non può essere che la tattica vada bene per tutte le sue stagioni e per tutti gli incontri. Quindi oggi credo che Milan debba far fare la partita all'Inter, farli sfogare un po' e poi dopo sfruttare le potenzialità che ci sono, perché adesso il Milan è in squadra, è vero che soffre un po' quando si difende, ma è in squadra due o tre giocatori che possono far gol, cosa che all'inizio di stagione non aveva. Mario, ma ti è capitato di giocare qualche derby così sbilanciato a livello numerico in classifica? In vantaggio o in svantaggio? Adesso io aiutami con la memoria. Quando io beh, a parte che ero in panchina quasi sempre nel Milan, ho giocato in Coppa Italia anche con non con molta fortuna in quella del Milan-Inter, ma noi eravamo sempre, abbiamo vinto due scudetti con il Milan. Eravate quelli sopra. Eravamo quelli sopra e non dico che per, insomma, l'Inter era quella che per loro lì il derby, la partita dell'anno, e per noi era una partita come le altre. E voi come la preparavate? Consapevoli di essere più forti? No, sinceramente, guarda, la cosa che mi ha colpito di più sempre la mia esperienza del Milan, di quel Milan, è che tranne le partite vere di Coppa dei Campioni, le altre erano un po' tutte partite uguali. Non c'era c'era questa consapevolezza di essere forti, di andare in campo, di giocare la propria partita, quindi molto era quello. Dalla semifinale in avanti di Coppa Campioni si sentiva qualcosa di veramente diverso. Le altre partite c'era, insomma, Mario, Mario, scusa, secondo te fa differenza non avere Handanovic, avere Padelli in porta per l'Inter? Vabbè, questo, sai, a parte che Padelli è un portiere esperto, ma Handanovic è uno dei fuoriclasse dell'Inter e del campionato italiano. Io a volte gli interisti l'hanno un po' sottovalutato, secondo me invece è un portiere veramente di notevoli doti, però poi sai, nella singola partita Padelli è un buon portiere, a volte ci sono questi misteri per cui il sostituto gioca meglio del titolare nel breve periodo, quindi insomma sarà un po' tutto da vedere, però insomma si registra questa assenza che sulla carta qualcosa togli. Intanto 25esimo minuto, primo tempo 0-0 Parma-Lazio, ci ha appena provato la Lazio con un colpo di testa di Caicedo, abbastanza però molle e centrale. Secondo voi chi marca Ibrahimovic? Dopo lo chiediamo a Riccardo Ferri, che è il prossimo ospite che ci risponde. Secondo voi chi lo marca? Io penso che ci andrà sopra sicuramente quando va Skriniar, centralmente di Vrij, e quando va laterale Skriniar sicuramente. Perché Per tenuta fisica secondo me Skriniar è il giocatore adatto. Certo, certamente. Però aggiungo una cosa, io penso che Ibrahimovic farà qualcosa di diverso rispetto a quello che ci aspettiamo, perché andarsi a mettere nella bocca del leone con 3-1, secondo me, anche se fosse l'Ibrahimovic di 28 anni anziché di 38, andrebbe in grande difficoltà. Secondo me deve... Caro Franco, magari fosse. Lo so, nel senso che uno... dei problemi del giocare a 3 in difesa, che poi è un 3 che diventa 5 alla fine della storia, è che tu hai 3 giocatori su uno solo, e se 3 giocatori vengono portati a spasso da Ibrahimovic, il quale non la tocca mai, ma tu hai una superiorità numerica da qualche altra parte, e quindi non sarebbe una cattiva situazione per il Milan se 3 giocatori dell'Inter si dedicassero al solo Ibrahimovic, invece la bravura di chi gioca a 3 e l'Atalanta in questo è maestra e scalare sempre in avanti, ma perché l'Atalanta gioca sempre 1-1, esatto, ma quello è la bravura, è quella, andare 1-1. Sì, sarà un bel duello fisico innanzitutto, perché Skriniar e De Vrij insomma sono in grado fisicamente di contrastare Ibrahimovic. Il problema, Franco dice qualcosa di diverso, che può fare soprattutto se gioca solo lui davanti. Non vedo grandi alternative, non vedo cosa si possa inventare Harry Potter Ibra. Da quello che capisco e da quello che ho intuito nei ragionamenti fatti ieri alla vigilia da Pioli, c'è il tentativo di liberare come seconda punta, anziché Çalhanoğlu, di liberare Rebic, che mi sembra quello più portato quando è a contatto ed è si avvicina alla porta. Mi sembra uno dei modi per fregare il 3-5-2 è quello di mettere una punta alle spalle dei laterali, no? Del laterale del quinto, diciamo, che spinge di più, quindi se Rebic gli va alle spalle, allora dopo il terzo della difesa deve uscire fuori, e lì insomma la bravura poi si apre il buco. Va bene, adesso questo poi lo vedremo a partire dalle 20:45. Grazie Mario. Grazie a voi, ciao, avvocato. A tutti. Ciao Mario. Mario Iep. Intanto Lucas Leiva ci ha provato, Lazio che sta gradualmente alzando il baricentro a Parma 0-0 quando siamo al 28esimo del primo tempo, partita molto bella ed equilibrata. 800 24 00 24. Lorenzo, Firenze. Sì, ciao, buonasera. Vai. Buonasera a tutti. Ma si può parlare solo di derby? No, puoi parlare di quello che vuoi. Vai, sai che qui la regola è questa. Bene, ok. Io volevo dire una semplice cosa. Mi sembra che le critiche alla Juventus siano seriose, a Sarri, perché voglio dire, sono primi in classifica, ottavi di Champions, sono in Coppa Italia. Non è che si può pretendere di vincere sempre. A questo allenatore bisogna dargli tempo, tutti rimpiangono già Allegri, ma da un certo punto di vista Sarri ha vinto anche di più di Allegri, perché ha vinto già un trofeo internazionale importante, non giocando un calcio, perché il Chelsea non è che giocava... Senti, ma questo ragionamento giusto che stai facendo, questa riflessione, dovresti avere la pazienza, la cortesia e l'abilità di farla ai milioni di juventini che ieri sputavano veleno su Allegri e adesso hanno preso di petto il povero Sarri. Il problema vero è che non sanno mai di che cosa parlano, perché, perché il problema della Juve, soprattutto di Verona, è un problema di testa, né di gambe né di schemi, perché regalare come ha regalato la palletta del gol di Borini è una roba che non si può vedere in una squadra come la Juve, per non parlare del rigore di Bonucci. Però voglio dire, sono d'accordissimo, voglio dire, il bello del calcio è che non esiste la proprietà transitiva, no? Cioè, nel senso, se batti il Barcellona poi devi andare a Verona e vincere 6-0. È il bello dell'imprevedibilità. Ieri sera il Verona correva a 2000 in più della Juve e aveva giocato il mercoledì a Roma, sì, sfatando quest'altro luogo comune che ci ha accompagnato per una settimana, per cui la Juve era favorita dal calendario che costringeva il Verona a giocare 3 partite in 6 giorni. Sì, no. Appunto, ma voglio dire, non è una colpa della Juve aver perso, può stare. Secondo me è una colpa sportivamente parlando, perché quando tu perdi 2 volte con la Lazio, una con il Napoli e poi ricadi nell'arco di 2 settimane di nuovo con il Verona, mettendo in mostra tra l'altro quasi gli stessi limiti, gli stessi errori, qualche ragionamento a metà febbraio, ma ne abbiamo parlato abbondantemente, qualche ragionamento devi farlo. Lazio che intanto 31esimo minuto è ferma sullo 0-0, grazie Lorenzo. Igor da Bologna, Igor. Sì, buonasera, grazie per la convocazione. Grazie. Volevo intervenire Vai. Sulla Juventus, avete già anche toccato l'argomento e le cose che volevo dire. Io premetto che sono un allegriano, però cerco di analizzare con obiettività. Nel calcio si può discutere tutto, hanno discusso anche Ronaldo, anche Capello è arrivato a dire che non scarvava più l'uomo, quindi si può dire di tutto. La cosa più evidente, più preoccupante è quando Sarri, dopo il post partita, dice: speriamo che qualcuno mi aiuti a risolvere questo problema. E questo secondo me è un segnale che non ha la situazione in mano, ed è la cosa più preoccupante, sì, secondo me. Qua ne abbiamo parlato, ogni tanto anche il body language fa la differenza in momenti di difficoltà. Allora, 32esimo, Parma 0 Lazio 0, ci fermiamo un minuto, poi torniamo sul derby. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. Convocati. 35 minuti sul cronometro, Altardini 0-0 tra Parma e Lazio. Lazio che in questo momento sale a 51 punti alla pari dell'Inter che gioca alle 20:45 il derby contro il Milan e a meno 3 dalla Juventus battuta ieri sera a Verona. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Riccardo Ferri. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Allora, come ti aspetti che presenti Conte l'Inter questa sera? Temi sono due: Eriksen sì e dove, e Godino D'Ambrosio. Ma questa soluzione con Eriksen alle spalle di Lukaku, con un 3-5-1-1, sulla carta potrebbe risultare come una soluzione attendistica per poi ripartire con delle ripartenze con i centrocampisti che sappiamo molto bravi nell'andare ad aggredire spazi davanti. Però credo che sia una delle soluzioni migliori in questo momento, vista ancora la condizione non ottimale di Sanchez, e in dubbio che Esposito, essendo un grandissimo talento in prospettiva, però in questo momento c'è bisogno di avere giocatori abituati a giocare queste partite senza condizionamenti di nessun tipo. Dall'altra parte è una squadra che ovviamente si metterà un po' a specchio e si lavorerà molto sulle catene di destra e di sinistra. Da una parte Young, Skriniar e Vestino magari si opporranno a Castigliego, Conti e che sì, e dall'altra io penso D'Ambrosio, Candreva, Barella con in opposizione a Rebic, Teo Hernandez e Benasser. Quindi un lavoro molto importante sulle fasce. Chi riesce ad avere la superiorità numerica in quelle zone diventa sicuramente pericoloso. D'Ambrosio o Godin per te? Secondo me D'Ambrosio, anche se Godin ha fatto molto bene all'andata, anche nell'uno contro uno con Leao, l'ho visto veramente con grande sicurezza, dicendo. Però D'Ambrosio è un giocatore polivalente, uno che magari si può dare qualcosa in più anche nelle ripartenze, in questo momento ha più gamba, però ripeto, sono due giocatori anche così dal punto di vista strutturale anche molto Riccardo, differenti. Ciao, sono Franco Ordine. Ciao Franco. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene. Sì, no, perché non ti vedo bene, molto. Ma non benissimo, Franco. Bene. Sì, no, dico perché non ti vedo molto lucido, perché all'andata Godin ha un po' sofferto la velocità di Leao. Lo sai che le opinioni sono sempre molto, sì, molto distorte. Però solitamente le tue coincidono con le mie, invece questa volta mi sembra che. No, io allora ti dico: Leao a secco così, se punta Godin 9 volte su 10 deve andargli via. In quell'occasione, se ti vai a rivedere la partita, più di una volta Godin è stato molto bravo ad affrontarlo nell'uno contro uno e a vincere anche il duello. Quindi era quello che spaventava un po' la vigilia della gara. Non te la lascio passare questa. Franco, chiamerò tua moglie che è più attenta. Sì. Un passato è molto più attenta. Altissimo livello. Oppure chiami Biasin che è uguale. Esatto. Puoi chiamare che Biasin che è uguale. No, ma io non sarei sorpreso, lo dicevo prima Riccardo, volevo sentire anche te su questo, se Conte andasse con, lasciando stare Eriksen, magari utilizzandolo di rincorsa dove può essere molto utile la partita magari spezzata, e non sarei sorpreso se andasse con i suoi, quelli che l'hanno portato fin lì, in una partita che, ripeto, l'Inter deve vincere, non ci sono alternative. Sì, devi dare spazio a Sanchez, in questo caso, o a Esposito, come abbiamo detto prima. Sì, sì, è possibile anche in questa versione, però tu mi hai chiesto un mio parere. Io, vedendola così, anche dipinta un po' sulla Gazzetta dello Sport oggi, la vedo bene, perché se Eriksen è un po' libero di poter giocare un po' così a Sergio Cristallo, a destra e a sinistra, senza avere grandissime responsabilità nel rincorrere gli avversari, è una squadra gioca corta, secondo me è uno che ha il piede per poter far partire Riccardo. Riccardo, scusa, a proposito dell'attaccante, io ti devo dire francamente che il Sanchez visto a Udine non mi era sembrato così in difficoltà. Sì, ma 20 minuti, eh? Ho capito, io quei 20 minuti giudico. Cioè, non mi è sembrato così... io l'ho visto bello vivace, almeno in quei 20... Probabilmente noi ce lo ricordiamo. Sì. Deve dicendo, però è indubbio che dal punto di vista della condizione non ha ancora... Quando stai fuori così tanto... fai fatica, e sai benissimo che in queste partite avere Sanchez in panchina e metterlo a partita inoltrata è uno che ti può veramente spaccare la partita. Dall'inizio, in questo momento qualche dubbio c'è, però voglio dire, ci sta, perché è un buon giocatore. Riccardo, ieri sera da piano guardando Verona-Juve, che pensieri hanno fatto secondo te? Ma è indubbio che si aprono delle possibilità che magari nelle scorse stagioni non si aprivano. Quindi c'è sicuramente uno spunto in più per affrontare questa gara e per metterci ancora qualcosa in più, anche se credo che non era necessario, perché questa è una partita che prepari già da quando c'è il fischio finale della precedente, ti viene in mente subito che successivamente c'è il derby. Quindi io credo che gli stimoli e le motivazioni siano tantissime. Però insomma, quella sconfitta della Juve, insomma, stanno scendendo un po' sulla terra, no? Come si suol dire. Quindi perché no? C'è l'occasione, hanno inciampato ancora per l'ennesima volta, e perché non dare ancora un qualcosa di più per mettere in difficoltà? Intanto Lazio in vantaggio, 41esimo minuto, sì. Ha segnato il miglior numero 13, secondo me, del campionato italiano. Caicedo. Ve lo dico. Girata da centro area. Gli ha regalata un po' la difesa, sì, del Parma. Sì, va bene, però ci sono attaccanti di riserva più forti all'Inter, alla Juventus. Caicedo è un giocatore clamoroso. Io da neutro faccio abbastanza il tifo per le vittorie della Lazio e dell'Inter stasera, perché morirei dalla voglia di vederle una di fronte all'altra tra una settimana a Roma. Ragazzi, a mezzanotte rischiamo di avere un campionato con tre squadre in un punto. Tantissima roba. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che ci sognavamo. In che senso non sono d'accordo? No, sul fatto di Lazio, cioè vince la Lazio, vince l'Inter, grandissimo campionato, grandissimo confronto diretto all'Olimpico. Io la mia domenica l'ho già portata a casa, ho vinto il derby col Taranto e sto a posto. Hai capito. Va bene, saluto Riccardo Ferri, grazie ciao, Riccardo. Ciao Franco, grazie. E buon derby a te, come abbiamo augurato buon derby a Mario Ielpo. Lazio, adesso c'è in ballo un controllo del VAR, quindi aspettiamo, perché credo sia stato annullato un gol. Adesso va verificato, perché il gioco è fermo in questo momento. Il pallone non è stato portato a centrocampo, ma c'è il direttore di gara che sta discutendo con i giocatori del Parma che si sono avvicinati a lui, il direttore di gara che è Di Bello, con Banti al VAR. Adesso è Parolo che sta parlando con Di Bello. La grafica segna ancora il vantaggio della Lazio, sì. 1-0 con gol di Caicedo. Protesta anche Inzaghi. C'è da verificare una posizione di fuorigioco, forse. Allora, da quello che ho visto io, Immobile rimane schiacciato, gol convalidato. Tanto gol convalidato. Rimane schiacciato come un sandwich da due difensori del Parma. La palla rimbalza davanti a Caicedo e quindi non credo che ci fosse nessun... Non ho visto niente nessun, di particolare, fuori gioco escluderei totalmente. Nessun elemento per poter andare a rivedere l'azione. Il sede rimischia centro area, quindi... Ma comunque girata... sono rimasti fermi per più di un minuto e c'era in corsa un silent check. Poi gol buono, dunque Felipe Caicedo ha portato in vantaggio la Lazio, minuto numero 41, Parma 0, Lazio 1, classifica che in questo momento dice Juventus prima con 54 punti, Lazio 53, Inter in attesa del derby, quota 51. C'è il traffico, poi arriva VAR Anatomy. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Eccoci qui, Luca Marelli, che saluto. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Ciao allora, a tutti. Ti chiediamo intanto subito la lettura su perché per più di un minuto non è ripreso il gioco in Parma-Lazio dopo il gol di Caicedo. C'era un dubbio su un tocco di mano sul rimpallo poco prima del tiro di Caicedo in porta, non c'era niente. Comunque ero già pronto a dire che questa regola andava cambiata, perché se avessero annullato alla rete per un tocco di braccio lì in mezzo a quella confusione sarebbe stato abbastanza assurdo. Fortunatamente non c'è stato nessun tocco di mano, la rete è stata convalidata. Sì, a proposito di tocchi di mano, anche il gol annullato alla Sampdoria settimana scorsa su un tocco lontanissimo dalla porta è stato abbastanza discutibile, anche se pienamente dentro l'interpretazione attuale del regolamento. Sono molto interessato, Luca, alla tua opinione a proposito dell'azione di Napoli-Lecce, dove c'è un rigore chiesto dal Napoli e l'arbitro che non va al VAR. Ecco, siamo intorno al trentesimo del secondo tempo, c'è un contatto, io lo chiamo per quello che è uno sgambetto su Milik, che va giù anche accentuando, viene ammonito per simulazione, un lungo silent check e poi abisso che al VAR non chiama giù alla revisione ma conferma la scelta del campo. Prego Luca. Allora adesso vi do una linea interpretativa, poi lo capirete, cioè quello che dico probabilmente lo capirete quando vedete le immagini. Giù dalla sua posizione non può vedere assolutamente nulla di quello che è successo. Probabilmente lui ha fischiato fallo alla difesa e simulazione, perché ha visto il giocatore del Lecce che aveva di fronte, cioè quello che gli copriva la visuale su Milik e l'altro difensore, lui ha visto che non ha toccato minimamente Milik, ha pensato che Milik fosse buttato proprio su quella contatto che non esisteva. In realtà lo sgambetto che c'è stato dall'altra parte non lo poteva vedere perché era coperto. Cosa è successo? È un tocco, è un fallo abbastanza leggero, Milik accentua molto. Io ho la sensazione che abbia tentennato per molto tempo, perché dal suo punto di vista non è un episodio da terzo il rigore, ma c'è un problema in questo episodio. Giua ha sanzionato Milik con una simulazione che è l'unica decisione che non ha nessun senso. Si può dare rigore, si può non dare rigore, si può fare tutto in quella circostanza, ma mai simulazione. Cioè questo questo è un chiaro errore, perché se tu dai la simulazione significa che immagini che non ci sia stato contatto. Se c'è contatto, in automatico dai il calcio di rigore, ma il VAR ti deve richiamare a vederlo. Sì, secondo me questo è più un missing accident, perché è proprio un episodio che ha completamente perso, perché è andato a sensazione giù e si sbaglia sempre quando si fa sensazione e alla fine... Sì, però qui siamo dentro il protocollo, cioè è imperscrutabile il motivo per cui non venga applicato, era anche facile da applicare. No, io penso questo, che capiremo ancora meglio e probabilmente eviteremo cortocircuiti come quello di oggi a Napoli, quando ci faranno sentire e ascoltare che cosa si dicono arbitro in campo mai, e arbitro VAR. Credo non avverrà mai. Sarebbe interessante. Hanno detto che qualcosa potrà avvenire, non tutte le domeniche, ma in casi speciali, hanno già detto Franco, durante l'ultimo incontro. Dimmi. Nell'anno Antani. Franco, sono 11 anni che qualcuno ci promette che gli arbitri parleranno. Sì. Anni. Sono 11 anni che lo dice, sono 11 anni che ci prende tutti per il naso. Mm. Sì, difatti aspettiamo con calma, ma io credo che aspetteremo e diventeremo tutti con l'età dei datteri, prima di arrivare a sentire gli audio, non un mese dopo, due mesi dopo, sei mesi dopo, ma diciamo in tempo reale per poter far cronache, non semplicemente storia. Allora, a proposito, intanto è finito il primo tempo a Parma, la Lazio in vantaggio per 1-0, gol di Felipe Caicedo al 41esimo. Io tornerei un po' su Verona-Juventus di ieri sera. Che cosa pensiamo qui? Lo abbiamo detto prima in apertura, partita che sigilla una settimana di inutili polemiche. Se esisteva un complotto, ieri facevano finta di non vedere il Mani di Bonucci, che nessuno aveva visto, neanche i giocatori del Verona, andavano tutti a casa, e poi oggi noi avremmo discusso di quel tocco di braccio. Questo è quello che noi pensiamo, però restano comunque alcuni episodi, Luca, su cui sarebbe il caso di fare luce. Intanto il gol annullato a Kumbulla nel primo tempo, intervento del VAR per un fuorigioco di pochi centimetri, che però è stato criticato da tanti. Sì, perché siamo sempre lì, non si accetta quello che viene visto da persone che devono fare proprio quel compito, non si accetta che possa essere annullata una rete per pochi centimetri. È successo un po' a tutti. Rilevante questo, fortunatamente, se c'è un centimetro di fuorigioco o un metro di fuorigioco, neanche anche niente, sempre fuorigioco è. Bisogna semplicemente accettarlo. Se visto, chiaramente poi si parla del frame, perché comunque questo concetto della malafede nella testa di tanti. Scusa però Luca, scusa, ma il primo a dubitare di un'applicazione del genere è il presidente dell'UEFA, che dice è impensabile che se uno ha il naso più lungo possa essere fiscato fuori. Si chiama fuori fuoco gioco. Amico. Hai ragione. Però secondo me si chiama stronzata. Comunque, poi pesatelo come volete. Vai Luca. Jeffrey ha rilasciato quella dichiarazione ai giornali inglesi. Casualmente in Inghilterra il VAR ne ha applicato a home. Così, sì, fanno un po' come vogliono. Restiamo all'Italia e a Verona Juventus di ieri sera. C'è quel silent check per un tiro di Higuaín che ha sbattuto su un braccio di Gunther. Chiariamo il motivo per cui non era calcio di rigore. L'episodio è molto interessante perché Gunther è stato tutto sommato fortunato. Tanto quando si dice che la fortuna non conta nel calcio, in realtà conta come. Perché se non avesse toccato il pallone col braccio destro, ma col braccio sinistro, sarebbe stato rigore. Perché il braccio sinistro era staccato dal corpo in posizione che viene considerata innaturale. Aspettate che è saltato il collegamento con Luca Marelli, adesso vediamo di recuperarlo. Sì, è stato fortunato, provo a interpretare, perché ha colpito col braccio attaccato al corpo, col braccio giusto, ma quell'altro anziché, era molto vicino, anziché con quello sbagliato. E devo dire francamente che almeno lì l'interpretazione è stata corretta, la decisione è stata altrettanto corretta. E quindi, però, la cosa più importante è quella che hai detto prima, e cioè il fatto che il famoso complotto pro Juventus nel giro di una settimana si è sgonfiato. Sì, è stato smontato. E l'episodio è quello del 40esimo del secondo tempo, che porta al calcio di rigore decisivo, poi realizzato da Pazzini con questo tocco di braccio sugli sviluppi di un corner, tocco di braccio di Bonucci che nessuno vede a velocità normale, che viene pescato dal VAR, che è Fabbri, che è molto bravo e anche molto attento a capire che deve guardare qualcosa, perché veramente a velocità normale non se n'era accorto nessuno. Ha funzionato in maniera ineccepibile il VAR ieri sera, e adesso molti avranno perso gli argomenti di discussione, io credo, di dibattito, perché ha funzionato perfettamente contro la Juventus, e quindi io credo che ci sarà parecchia gente in giro. Beh, disarmata nel caso del gol annullato al Verona, insomma, 1-1, però ragazzi, ma sui fuori gioco abbiamo imparato che è una questione fideistica, c'è la tridimensionalità, no, e così però è. Voglio dire, da questo punto di vista secondo me viene fuori una lettura per fortuna corretta del campionato, perché di questo campionato tutto si potrà dire tranne che sia telepilotato. Luca, siamo in chiusura, mi dici se Bonucci, come tanti tifosi non della Juventus hanno scritto in queste ore soprattutto sui social, andava espulso nell'occasione del rigore? Assolutamente no, l'espulsione per un tocco di mano che provoca un calcio di rigore è prevista solamente se la direzione col braccio avviene sulla linea di porta col portiere completamente fuori causa. In questo caso non sappiamo, perché possiamo semplicemente immaginarlo dove sarebbe andato a finire il pallone, ma non sappiamo dove sarebbe finito con certezza. Pertanto la munizione è prevista, perché si tratta di un tiro in porta. Il colpo di testa è un tiro in porta, esattamente come, vi ricordate, Parma-Torino, le funzioni di Bremes per doppia munizione su un tiro in porta venne ammonito per un tocco di mano. Esattamente lo stesso concetto, semplicemente che è una dinamica differente. Quindi l'ammonizione è la sanzione disciplinare adeguata. Grazie Luca. Ciao Luca. A voi. Ciao, domenica prossima. Noi ci fermiamo qui, finito il primo tempo, 1-0 della Lazio a Parma. Io ringrazio e saluto Franco Ordine. Saluti, ciao Franco. Saluti. Un saluto presto. Anche a te Carlo, domani dopo il GR delle 14 torni con tutti i convocati. Ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Filippo Aureggio e Valeria Bernardi in regia. Noi ci sentiamo domenica prossima alle 17. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.